E quindi Panama, questo stato del Centro America, l'ultimo stato del Centro America a essere indipendente. Forse molti di voi non lo sanno, ma Panama, la sua nascita, la sua storia è proprio la dimostrazione di fino a dove si spinge l'impero, il cosiddetto impero statunitense, per mettere in pratica i suoi interessi. Infatti, Panama era una provincia della Colombia. Una provincia della Colombia che infatti è lo stato immediatamente a sud di Panama. In questa provincia settentrionale della Colombia già da molto tempo c'era un progetto di aprire un canale che collegasse Atlantico e Pacifico, perché prima dell'apertura di questo canale, che c'è stata all'inizio del Novecento, le navi dovevano circumnavigare le Americhe per raggiungere la costa pacifica degli Stati Uniti, ad esempio, da New York a Los Angeles. Non si doveva fare tutto il giro, si doveva passare per lo stretto di Magellano quindi fare una navigazione lunghissima che non conveniva, ovviamente. Ma questo progetto era un progetto che già era stato ipotizzato nel passato, addirittura ai tempi dell'impero spagnolo, ma venne iniziato, divenne insomma conveniente e ci furono gli strumenti adatti per renderlo conveniente solo alla fine dell'Ottocento. Questo anche per far notare, infatti anche il canale di Suez è stato aperto 30 anni prima di quello di Panama nel 1870, appunto per far notare come i grandi traffici internazionali, come la cosiddetta globalizzazione, non sia un processo degli ultimi decenni, anche se naturalmente ha ricevuto una grande accelerazione negli ultimi decenni, ma insomma è un processo che va avanti fin da quando i portoghesi iniziarono ad esplorare le coste dell'Africa e forse anche da prima, se si va a vedere i traffici che c'erano all'interno del continente eurasiatico già nel 200. Ma ritornando a noi, ritornando alla fine dell'Ottocento, quando i francesi iniziano il tentativo di aprire questo canale tra Oceano Pacifico e Oceano Atlantico, tentativi falliti, tentativi che hanno portato più di 22.000 lavoratori a morire a causa della malaria e della febbre gialla di queste zone tropicali del continente americano. Insomma, siamo al centro, siamo in Centro America, al di sopra dell'equatore, tra il tropico del Capricorno, credo, e l'equatore, e c'è un clima malsano soprattutto per effettuare questo genere di lavori. Si trattava di scavare montagne alte qualche centinaio di metri, ma comunque sbancare una montagna di 300 metri non è un'opera ingegneristica di poco conto. Infatti presto hanno deciso quando gli statunitensi, gli americani del nord sono subentrati ai francesi, hanno deciso di fare un altro tipo di lavoro, che poi è quello che oggi mantiene attivo il canale di Panama. In pratica, per passare da Pacifico ad Atlantico non c'è un canale a livello del mare, ma sono state costruite una serie di chiuse che riempite, innalzano la barca. Si tratta insomma di delle vasche nei quali la nave, l'imbarcazione si mette, l'acqua sale e, come in un ascensore, le barche salgono a livello del canale che collega i due oceani. Insomma, è una cosa abbastanza particolare. Io consiglio a tutti, per averne un'idea più chiara, ovviamente, di andarsi a vedere i video su internet. Ci sono e sono molto più esplicativi di ogni spiegazione che posso fare per via radiofonica. E queste chiuse naturalmente consentono il passaggio di navi di una certa stazza, e proprio in questi mesi stanno venendo costruite un terzo gruppo di chiuse che deve permettere il passaggio di imbarcazioni che possono contenere ben 12.000 container. Pensiamo un po' qual è l'entità di questi traffici internazionali. 12.000 container, un container è quello che per esempio vediamo su un autocarro, sono tutti di dimensione standard, hanno tutte le stesse misure e sono quelli che vediamo al rimorchio di un autocarro, e ci sono queste navi con piani e piani di container impilati l'uno sull'altro che attraversano gli oceani e passano in questo caso dalle coste dell'Asia sul Pacifico, quindi dalla Cina, da Taiwan, dal Giappone, dall'Asia del sud-est fino all'America, e naturalmente quelle che si dirigono in Europa non passano da Panama ma dall'Europa. Però tutte le merci che vanno sulla costa pacifica degli Stati Uniti, che vanno per il resto del continente americano, passano proprio dallo stretto di Panama. E quindi questa è una zona cruciale per i commerci internazionali, e come anche per Suez potete immaginare che gli stati che occupano un posto centrale all'interno di questo sistema capitalista non erano tanto sicuri a lasciarli nelle mani di governanti periferici come potevano essere il governo egiziano, appunto. Ricordiamo che l'occupazione coloniale da parte della Gran Bretagna dell'Egitto avvenne poco dopo la costruzione del canale di Suez. Allo stesso modo, quando gli Stati Uniti iniziarono a costruire questo canale, ebbero subito delle complicazioni con il governo colombiano. Ricordiamo che Panama in quel momento era una provincia della Colombia. Che cosa fecero gli Stati Uniti? Sostennero quindi un movimento di indipendenza all'interno di questa provincia, che impedirono alle truppe colombiane di contrattaccare contro questo movimento di indipendenza, e Panama nacque come stato indipendente, l'ultimo stato indipendente dell'America Latina, l'ultimo stato indipendente del Centro America nel 1903. E con gli Stati Uniti il nuovo stato firmò subito un trattato che concedeva l'amministrazione della zona del canale agli Stati Uniti. Quindi in realtà era uno stato spaccato in due che esisteva solo per garantire l'amministrazione di un territorio che veniva controllato direttamente dagli Stati Uniti. Che cosa significa che la zona del canale era degli Stati Uniti? Che là a governare, ad amministrare, ad occupare militarmente quelle zone c'erano le truppe statunitensi, e c'erano anche le sedi del comando SUR, del South Command dell'esercito degli Stati Uniti, quindi di tutta quella parte dell'esercito statunitense che si occupava di mantenere il controllo militare dell'America del Sud. Questo che significa che proprio a Panama fino agli anni 80 ha avuto sede la Escuela de las Americas, ossia la scuola dove sono stati formati tutti quei dirigenti e ufficiali delle forze di polizia sudamericane, le stesse forze di polizia, gli stessi ufficiali dell'esercito che hanno portato avanti queste terribili repressioni dei movimenti rivoluzionari sudamericani negli anni del Novecento. E poi la scuola è stata spostata in Georgia, così come ormai la zona del canale non è più amministrata dagli Stati Uniti, è stata prima amministrata per 20 anni, a partire dal 79 fino al 99, dagli Stati Uniti e da Panama in maniera congiunta, e dal 99 è tornata sotto il pieno controllo di Panama. E proprio da quel momento, diciamo, Panama ha anche iniziato a trarre una certa ricchezza dall'amministrazione diretta della zona del canale. e in questa, di questa zona fa parte soprattutto questa zona libera di Colón. Colón è la città che sta all'imbocco del canale di Panama dalla parte dell'Oceano Atlantico, alla dalla parte opposta sul Pacifico si trova invece la capitale Panama, e in questa città di Colón c'è una vasta zona che è appunto una zona esente da ogni tipo di tassazione, è la più grande zona senza tassazione del mondo dopo Hong Kong, che come molti di voi sapranno è stata per 100 anni una colonia inglese all'imbocco della provincia del Guangdong in Cina, e che nel 97 è tornata sotto il controllo della Repubblica Popolare Cinese, però mantenendo un sistema amministrativo e di governo separato da quello del Partito Comunista Cinese nel resto della Cina. Insomma, questa zona libera di Colón è la seconda per livello di affari, per entità, per milioni di dollari che circolano, la seconda zona libera del mondo dopo Hong Kong. Agradeciendo tanto, agradeciendo tanto. Cosa succede in questa zona libera? La maggior parte delle imprese che commerciano con il Sud America hanno qui i loro magazzini, hanno qui i loro negozi, le loro vetrine, e poi da lì tutti i paesi sudamericani acquistano i loro prodotti che provengono dall'Europa, che provengono dall'Asia e che sono diretti al Sud America, all'America Latina. Quindi è una zona cruciale per gli interessi economici che riguardano l'America Latina, ed anche una zona cruciale per quanto riguarda le entrate dello Stato panamense. Questo conflitto enorme che è scoppiato nell'ultima settimana vedeva appunto riguardava una legge, la legge numero 72, che il governo di Riccardo Martinelli aveva approvato il 19 di ottobre per privatizzare le terre sulle quali queste multinazionali hanno i loro magazzini e i loro negozi. In che senso privatizzare? Nel senso che queste multinazionali non hanno, secondo proprio la legge panamense, non possono comprare questi terreni, ma devono versare un affitto allo Stato panamense. Quindi lo Stato, attraverso queste entrate, diciamo, può, diciamo sempre col contagocce, destinarle a degli scopi sociali, per la sanità, per le infrastrutture, per le opere che riguardano la distribuzione idrica, dell'elettricità, eccetera. Naturalmente questo viene fatto molto parzialmente, lo vediamo anche dalla composizione di questi delle persone che si sono mobilitate per questi scontri di piazza nell'ultima settimana. Insomma, qui passano tutte le ricchezze del Sud America. Se si entra nella zona libera di Colón, che tra parentesi è separata da un muro dal resto della città, si vede proprio, andatevi a cercare le foto su internet, zona libera di Colón, si vede l'entrata come se si passasse per una frontiera qualsiasi, e qua stiamo parlando dello stesso Stato panamense. Però tu, per entrare là dentro, se sei un abitante sfigato di Colón e non un compratore con il tuo autotreno, devi mostrare documenti e probabilmente nemmeno ti fanno entrare. Dentro invece ci sono le strade ordinate, i negozi di Gucci, della Apple e di tutta questa roba qui. E appunto, vedendo la composizione semplicemente dai video che girano su internet, si vede come la maggior parte della popolazione di Colón sia tutt'altro che ricca e benestante. Questa popolazione si è mobilitata subito appena ha visto profilarsi questo tentativo di privatizzazione delle terre della zona libera. La polizia panamense ha reagito come reagisce, insomma, la polizia di ogni parte del mondo, con estrema violenza, sono morte tre persone, un bambino di 10 anni che è stato colpito da un proiettile mentre si trovava sul balcone di casa sua, una signora anziana che è rimasta uccisa per gli effetti dei gas lacrimogeni, e un altro bambino colpito da un proiettile, una bambina di 14 anni colpita da un proiettile vagante. Quindi c'è anche, oltre ai centinaia di feriti, ci sono state anche queste tre morti. Le proteste si sono estese anche al resto del paese. A Panama ci sono state, nella città di Panama, la capitale, che si trova dalla parte opposta del canale, nella zona pacifica, c'è stata anche lì una mobilitazione il venerdì scorso con il blocco delle strade di Panama attorno alla sede dell'Assemblea Nazionale, che era presidiata da un massiccio schieramento di polizia. Il saldo di quella giornata è di 11 feriti e 200 detenuti per l'assalto ai negozi e ai supermercati all'interno di questa protesta. Tutte queste proteste però hanno prodotto il ritiro della legge 72 da parte del governo di Martinelli, quindi un grande sconvolgimento sociale che ha pagato anche dei prezzi abbastanza alti, con tre morti e centinaia di feriti e di arrestati, ma che è riuscita per ora a bloccare questa legge. Purtroppo esiti del genere non sono scontati. Prima di sentirci un'ultima canzone, io voglio spendere qualche parola anche su questo presidente di Panama, Riccardo Martinelli, che è di origine italiane, il padre originario di Lucca, e su questa inezia si misura anche, io penso, l'imbecillità di tanti personaggi che qua in Italia celebrano i loro compaesani, per nemmeno dirli concittadini, perché la mentalità è proprio quella paesana, senza nulla togliere ai piccoli paesi dove anch'io sono cresciuto, ma appunto l'abbiamo visto pure qualche settimana fa con la celebrazione a un piccolo comune qua vicino a Roma, a file di quello che è uno dei peggiori criminali di guerra della storia del nostro paese, il maresciallo Rodolfo Graziani. Insomma, anche a Lucca viene celebrato questo Riccardo Martinelli, che ha raggiunto questa vetta dell'ordinamento politico panamense, e che per questo ha ricevuto dalla città di Lucca, che immaginiamo governata dal centro-sinistra, le chiavi della città, perché mai un figlio di Lucca è salito così in alto nel mondo prima di lui. Insomma, un presidente che, come abbiamo visto in questi giorni, si è mostrato in linea con la tradizione di governanti latinoamericani iperrepressivi. Per questa repressione ha causato tre morti. Ci chiediamo se fosse successo in qualche paese che invece non va molto d'accordo con l'Unione Europea o con Washington, se avesse ricevuto gli stessi apprezzamenti. Martinelli in ogni caso ha raggiunto le vette del capitalismo del suo paese, perché oltre a essere il presidente di Panama è anche proprietario di numerose compagnie panamensi, proprietario della catena di supermercati Super 99, siede nei consigli di amministrazione di Azucarera La Victoria, quindi zuccherificio, della Era e della fabbrica di plastico l'SA, direttore di imprese come Gold Mills di Panama, un'impresa di estrazione aurifera, e ora l'oro a Panama è uno la principale merce esportata. Quindi vediamo come questi paesi, questi presidenti, viene tanto celebrata la crescita economica di Panama, ma su cosa si basa questa crescita? Su i servizi prestati alla ricchezza che passa per questo paese e che non si ferma, ma passa diretta ad altri lidi, e sull'esportazione di materie prime. Si tratta di rame e di oro, soprattutto giacimenti di oro, che appunto vediamo il presidente panamense è anche uno dei protagonisti di questo settore, siede anche nel consiglio d'amministrazione della Global Bank, della Televisora Nacional de Panamá, quindi televisioni, banche, industrie di plastica e d'estrazione aurifera, un po' proprietario di tutto a Panama. È stato direttore della Camera di Commercio e ha studiato naturalmente negli Stati Uniti, perché questi personaggi non vanno all'università nei loro paesi, dove se gli va bene ci va una parte piccola della popolazione, ma se ne vanno a studiare negli Stati Uniti, dove apprendono come fare poi gli interessi del capitalismo internazionale, quindi delle multinazionali statunitensi e europee o anche giapponesi e cinesi ora. E quindi questo è questo personaggio. Io volevo ricordare quello che rappresenta, per appunto far notare come per il solo fatto di essere originario dell'Italia è stato celebrato a Lucca. Ricordiamo pure qualche anno fa il golpe in Honduras, successore golpista del legittimo presidente, quello che aveva preso il potere attraverso il colpo di Stato, era anch'egli un originario dell'Italia, della provincia di Bergamo, e questo gli meritò qualche articolo sul Corriere della Sera. Insomma, siamo più attenti a queste cavolate che a quello che poi questi personaggi fanno. Prendiamoci l'ultima pausa musicale, poi ci risentiamo per i saluti e lasceremo i microfoni di questa di Radio Onda Rossa a Impatto, la trasmissione che si occupa dei movimenti contro le nocività. Señoras y señores, bienvenidos al